Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E ben ritrovati nei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che riprende la chiacchierata con Dorena Caroli rispetto al fenomeno dei pionieri in Unione Sovietica. Questo ricordiamo prendendo spunto anche dal testo della stessa Caroli, Ideali, ideologie e modelli formativi, il movimento dei pionieri in Unione Sovietica 1922-1939, edito Unicopli. È lo sbocco editoriale di una tesi di laurea della stessa Caroli nella Università di Bologna. Abbiamo parlato della prima fase, la volta scorsa, dei pionieri in Unione Sovietica, ora vediamo sotto l'egida staliniana e nell'era brezhneviana. Buon ascolto. Caroli, il movimento del pioniere naturalmente negli anni cambia. Tra il 1928 e il 1937 c'è il primo piano quinquennale. Che tipo di ruolo hanno i giovani pionieri in questo momento della storia dell'Unione Sovietica? Effettivamente con il cambiamento dell'economia sovietica si viene abbandonata la nuova politica economica e si avvia il primo piano quinquennale, ai pionieri vengono attribuite delle nuove funzioni. Ecco, ricordo che era una situazione, diciamo, economica e di condizioni drammatiche proprio, di povertà, che era una condizione che non riguardava solo l'Unione Sovietica, riguardava anche l'economia mondiale, c'era stata una grande crisi, insomma era in atto una grande crisi. Certamente questi sono anni che dovevano favorire l'industrializzazione e la cosiddetta collettivizzazione forzata, che costrinse anche molti contadini ad abbandonare, anzi ci furono proprio vere e proprie deportazioni che impoverirono l'agricoltura. Ma tornando al discorso su pionieri, in questa nuova fase dovevano diventare anch'essi partecipe della costruzione del piano quinquennale, quindi non avevano solo compiti politici, sociali, ma dovevano realizzare il piano finanziario, contribuire alla raccolta delle materie prime, aiutare i contadini nella semina, liquidare l'analfabetismo. A questo punto mi domando, Caroli, ma che età avevano questi pionieri? I pionieri avevano dai 12 ai 14-16 anni. Quindi parliamo già di adolescenza. Adolescenti, ma costretti, obbligati a lavorare, si tratta proprio, potremmo dire, di sfruttamento minorile in questi casi, non solo, addirittura attraverso il lavoro nelle sezioni dovevano anche ricorrere al cosiddetto criterio dell'emulazione socialista, cioè fare gare di produzione fra di loro, un po' come il famoso caso del Stakhanov che doveva raccogliere carbone nelle miniere e diventò un esempio di produttività. Questo successe più tardi. Però questi primi meccanismi che dovevano animare anche il lavoro dei pionieri, noi li vediamo sorgere col primo piano quinquennale. Quindi vediamo un movimento che perde la sua spontaneità, i suoi spazi di libertà. Addirittura proprio in questi anni c'è un discorso di Stalin, Lenin ormai non c'era più, Stalin interviene perché si accorge che questi ragazzi che sono obbligati a vivere in questo modo, cioè a lavorare e a non avere spazi ricreativi, perché il movimento dei pionieri aveva anche questa prerogativa di offrire dei momenti di ricreazione, si accorge invece Stalin che i ragazzi sono un po' ribelli, come giustamente dovevano esserlo rispetto a un regime che gli stava privando di ogni libertà. E scrive Stalin un discorso sullo stile insopportabile inaccettabile e sbagliato di alcuni pionieri, perché le loro riunioni di lavoro, di discussioni politiche finivano col ballo. Quindi questo era inaccettabile per una società comunista. Si cercava infatti di contrarre tutti i momenti di libertà nella vita privata degli individui. E naturalmente il modello formativo cambia in questo momento, perché è un modello formativo che è incentrato più sulla disciplina, addirittura sulla formazione militare, e dall'altra parte si vede come le autorità invece cercano di contrastare questa cultura alternativa, detta anche subcultura, nel momento proprio in cui sulla società si abbatte una violenza senza precedenti. Caroli, nella fase successiva, adesso andiamo un po' per larghe linee, naturalmente quella della Seconda Guerra Mondiale, il movimento di pioniere cambia ancora volto e diventa un movimento di massa. Diventa un movimento di massa soprattutto all'inizio degli anni 70, quindi con il disgelo e con l'arrivo al potere di Brezhnev, naturalmente il movimento dei pionieri, che si è guadagnato, potremmo dire, questa dimensione ricreativa, soprattutto perché si era impegnato durante la Seconda Guerra Mondiale in numerose attività di combattimento anche contro i tedeschi, diventa un movimento di massa anche grazie al miglioramento di vita e al miglioramento delle condizioni della popolazione, e raggiunge la cifra di circa 20 milioni di aderenti, quindi diventa probabilmente il movimento giovanile più importante del XX secolo. E comincia a sviluppare tutti questi palazzi dei pionieri che si trovano nelle grandi città, Mosca, San Pietroburgo. Dal movimento dei pionieri sono nati dei dirigenti sovietici, cioè è servito anche per costruire la dirigenza del KUS, del governo sovietico negli anni. Sono arrivati dei ragazzi formati nei pionieri alle alte dirigenze dello Stato? Che quando ho cominciato a lavorare negli archivi ho proprio trovato degli ex pionieri che avevano assunto dei ruoli dirigenziali non solo nell'organizzazione dei pionieri, ma anche nell'organizzazione della gioventù comunista, come se questa adesione al movimento dei pionieri avesse costituito il trampolino di lancio della carriera politica. Addirittura, quando ho lavorato nell'archivio della gioventù comunista, le archiviste stesse erano state delle pioniere da giovani, e non solo, mi avevano fatto conoscere le protagoniste delle riforme dell'istruzione del dopoguerra, e in particolare una, mi ricordo, di Lyubov Balyasnaya, che era stata segretario del comitato centrale della gioventù comunista e presidente del consiglio centrale dell'organizzazione sovietica dei pionieri di Lenin dal 58 al 64. E si trattava di donne che non solo erano legate all'esperienza dei pionieri, ma anche dall'esperienza della guerra. Molte che avevano condiviso momenti sul fronte si sono poi ritrovate all'interno dell'organizzazione e hanno contribuito a tenere in piedi l'organizzazione nel dopoguerra. E l'aspetto più interessante è che hanno animato l'archivio della gioventù comunista. Grazie a queste donne, che erano archivi viventi, perché quando mi mi sono rivolta a questo archivio per cercare la documentazione necessaria, in realtà potevo avvalermi anche di tutti i loro ricordi, e di solito si trattava di ricordi molto piacevoli, perché l'esperienza degli anni dell'organizzazione dei pionieri era piacevole per tutte queste donne, donne attive che avevano conosciuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ma animate nel secondo dopoguerra da ideali veramente sinceri, dei quali ero molto colpita. E quindi racconti, legarli, collegarli ai documenti d'archivio è stata sicuramente una delle più belle esperienze di ricerca che ho fatto. La seconda parte della trasmissione parla di un grande dell'animazione italiana, Bruno Bozzetto, classe 1938, dunque animatore, disegnatore e regista italiano. Autore di lavori ormai mitici come Western Soda o creatore di altrettanto personaggi mitici come il signor Rossi. In questa intervista scovata dalla rete a curia di Dario Moccia sentiamo un po' i suoi inizi, i suoi rapporti con Carosello e come nascono le sue grandi opere e cosa pensa infine anche del futuro dell'animazione italiana. Allora, l'animazione mi piaceva in seconda battuta, nel senso che il mio amore è stato il cinema. Ho iniziato comprando l'ha presa mio padre, una macchina da presa 8 mm, e io ho cominciato a fare film dal vero con i miei compagni di scuola. Poi ho scoperto che era difficilissimo. Contemporaneamente disegnavo, mi piaceva disegnare, mi piaceva creare caricature di personaggi, e quindi ho tentato l'animazione, ho fatto degli esperimenti e ho visto che suscitava un grande interesse, perché l'animazione allora era sconosciuta. Era solo Disney, erano tutti curiosi, questo mi ha stimolato chiaramente a continuare, e ho fatto degli esperimenti, al cineclub sono piaciuti e sono arrivato al mio primo cortometraggio, che era appunto Tapun, la storia delle armi, realizzato in casa con l'aiuto di mio padre. Facevamo noi tutto, le voci, il sonoro, la ripresa. Questo mi ha permesso di arrivare a Cannes, e a Cannes ho conosciuto appunto Norma McLaren, c'era anche Richard Williams, piaciuto, ma niente di particolare, voglio dire, l'unica curiosità era che io ero unico italiano. Il colpo di fulmine, il colpo di fortuna, diciamo così, è stato quando un grande critico è entrato per caso, era al festival dei lungometraggi, è uscito dalla sala di proiezione perché non gli piaceva un film, stava andando in albergo, passando davanti in un corridoio, c'è una saletta, da una porta esce una musichetta, curiosito entra, stanno proiettando Tapun, la storia delle armi. Lui torna a casa e scrive che il mio film era più bello di quello di Sofia Loren che stava proiettando. Manda l'articolo al Giorno, lui era critico del Giorno, Pietro Bianchi si chiamava, al Giorno, quello che realizza i titoli l'avevo conosciuto settimana prima, questo vede il mio nome, fa il titolo Caratteri Cubitali, meglio il film di Bozzetto di quel di Sofia Loren. È stato un fulmine a ciel sereno, e questo ha convinto anche mio padre che non era solo un gioco ma poteva anche diventare un lavoro. La nascita del signor Rossi. Il personaggio nasce non come l'uomo comune italiano, ma nasce da una storia vera. Io avevo mandato a un festival che si svolgeva a Bergamo, che era la mia città, ho mandato un cortometraggio, uno dei primi che avevo fatto, ed è stato rifiutato. Poi ho visto al festival dei film orribili, molto più brutti del mio, allora mi sono girato un po' e ho deciso di fare un film che raccontasse questa storia. Nel creare la storia ho inventato questo personaggio, che poi ho scoperto, ma è stato casuale, non è voluto, che rappresentava la caricatura del direttore di questo festival. Questo personaggio raccontava una storia che mi era capitata, infatti alla fine lui manda un film al festival, diventa matto per realizzarlo, lo manda al festival, viene rifiutato, e allora prende la pellicola, la rovina, gli salta sopra la pittura, la perfora, la rigetta dentro il palazzo del festival e vince l'Oscar. E questa è stata la prima storia. L'idea era di fare una situazione, una parodia delle vacanze italiane. Nel momento in cui stavo pensando questa storia mi sono detto: ma perché devo inventare un personaggio nuovo? Ho fatto il signor Rossi, è simpatico, funziona, e l'ho inserito in questi film, questi cortometraggi che ironizzavano sulla nostra vita. Ne ho fatti 7 alla fine, è diventato un personaggio, ma non era previsto. Avendo in mano questo personaggio, che incominciava a essere conosciuto, ha preso parecchi premi ai festival, la Rai mi ha chiesto di fare qualcosa di più. Io ho avuto sempre l'aiuto, appunto, come hai detto, di Guido Manuli, fantastico, Maurizio Nichetti, Giovanni Mulazzani, ho avuto dei collaboratori fantastici. Con Maurizio Nichetti abbiamo incominciato a inventare delle storie per la Rai, che ovviamente mi chiedeva film per bambini. Prendevo in giro la vita dell'italiano medio, effettivamente, era una satira. Nel momento in cui la Rai mi chiede di fare delle storie, abbiamo dovuto inventare Gastone, il cane, dargli la voce, attenzione, lui non parlava. In questi film ha dovuto parlare e abbiamo dovuto trasformarlo un po' con delle storie che fossero adatte ai bambini. L'esperienza con Carosello. Quando uno prendeva il cliente, un carosello significava 5 caroselli, più uno che veniva ripetuto, ma ogni settimana 1 minuto e 45 di spettacolo, quindi 1 minuto e 45 per 5. Purtroppo con la fine di Carosello sono morte tutte, perché non c'era lavoro spettacolare che potesse coprire questo buco, che è stato un grande peccato. Questo tipo di lavoro ha permesso veramente la crescita di professionisti, di animatori, di scenografi, la nascita, lo sviluppo, il miglioramento professionale di grossi studi, la Gamma Film, la Power Film, la Pagò. Noi eravamo tra i più piccoli, devo ammetterlo, era un piccolo studio artigianale rispetto a loro. Hanno preferito acquistare prodotti in Giappone piuttosto che produrli qui. In realtà c'era la possibilità di produrli, ma io parallelamente facevo parte spettacolare, cortometraggio e poi un lungometraggio, e questo mi ha permesso di viaggiare su due binari: riconoscimento della gente nella parte spettacolare. Non guadagnavo molto in campo spettacolare, ma mi rientrava come pubblicità. Gulp ci chiedeva di tornare indietro, voleva personaggi fissi, perché partendo dal fumetto non voleva animazione. Quindi al momento sono rimasto sconvolto, dico: ma come? Noi siamo arrivati qui e voi ci chiedete di tornare qui? Poi ho capito il meccanismo di tutto questo, però il signor Rossi in Gulp rispetto ai film d'animazione ha fatto un passo indietro, non un passo avanti. Però nello stesso tempo ha raggiunto un sacco di pubblico, un pubblico nuovo, un pubblico giovane, un pubblico che veniva dai fumetti, quindi ci ha aperto un'altra strada. Ma addirittura arrivavamo a dei conflitti, perché noi istintivamente in certe scene le animavamo. Allora ci dicevano: no, non dovete animarle. Ma io sentivo che in quel caso una certa animazione gli dava più ricchezza, ma non si poteva, perché era un tipo di film che doveva basarsi sullo spirito del fumetto. Un'invenzione originalissima, bella, però ripeto, per noi è stato un po' un attimo di smarrimento. Arriva Western Soda. L'idea non è balenata a me, me l'ha detta, me l'ha suggerita il professor Attilio Giovannini. Eravamo in vacanza insieme, io con la sua famiglia, e un giorno sulla spiaggia stavamo camminando a Taranto, figurati, mi dice: ma Bruno, mi hai pensato di fare un lungometraggio? Ma sei matto? Eravamo un lungometraggio, eravamo in 4 gatti. Il lungometraggio in quel momento era Pinocchio, Disney, Cenerentola, insomma erano film con un certo tipo di storie, un certo tipo di atmosfera che era lontanissima dal mio mondo. Mi viene in mente che il western, che io adoravo, era praticamente diventato una specie di favola. Quando ti dico Pinocchio sai già la storia, se ti dico Cenerentola sai già la storia, se ti dico un film western sai già la storia. Parlo di quelli classici, non di quelli moderni. Avendo una storia facilissima, noi possiamo permetterci di giocare sulle gag, sulle invenzioni, perché la storia la conoscono già. Posso permettermi di prendere delle situazioni a blocco, prenderle in giro come voglio, nella maniera più folle, anche surreale. Avevo Guido Manuli, che era un gagman formidabile, e quindi ha tirato fuori un sacco di gag fantastiche. 4 animatori e 3 scenografi, fine. Fino abbiamo fatto in 7 persone. Si improvvisava, cioè io sapevo che la storia era quella, cioè oggi facciamo il duello. Il duello, cosa sono le parti belle del duello? È quello che le mani, lavoriamo su quello. Noi dovevamo solo sbizzarrirci a inventare delle gag e a rendere divertenti delle situazioni. Io ero figlio unico, mio padre non stava male, mi poteva aiutare, ma comunque ricordo la domanda: se facendo questo film alla fine non guadagnassimo neanche una lira, potremmo continuare a vivere? Sì, allora facciamolo. Il problema di quell'epoca era che eravamo illustri sconosciuti, non appariva mai il nome di nessuno nel carosello, non si sapeva niente di nessuno. L'unico sistema era arrivare al cinema, sembrava una follia assoluta. Infatti io, quando ho finito il film, non avevo distributore, ho andato alla Cinerizzo, questi ho visto il film, ma Bozzetto, ma perché non ha fatto Biancaneve in versione moderna? Però hanno avuto il coraggio di farlo uscire. Mi ha detto la cassiera che Celentano è tornato 3 volte a vederlo in una settimana, e io stavo dietro la colonna di fronte al cinema Arlecchino, nascosto, a controllare se la gente andasse veramente al cinema a pagare il biglietto. Non credevo che la gente potesse pagare i soldi per vedere un film nostro, non ci credevo. Qual è la differenza tra Allegro ma non troppo e Fantasia di Walt Disney? Credo che una differenza sia il lavoro che ho fatto, molto difficile devo dire, nello sforzarmi di trovare una storia che avesse un inizio, una fine, possibilmente una trama, mantenendo la connessione con la musica. Questa musica mi porta in un bosco, benissimo, vedo la natura, vedo un ruscello. Nel momento in cui la storia si sviluppa, la storia richiede un andamento particolare che segue la musica, e la musica invece va da un'altra parte. In Fantasia c'è, in particolare nell'Apprendista Stregone, che è il più bello di tutti, lì c'è una storia. Nelle altre sono un po' dei quadri, degli affreschi. Schiaccianoci sono tante situazioni, La danza delle ore sono dei balletti, non c'è una storia. Ora io ho un po' la fissazione di avere delle storie, delle trame da raccontare, e questa storia, questa mania, diciamo così, mi ha un po' bloccato, ma mi ha anche permesso di fare qualcosa di un po' diverso. Uno dei primi che è entrato è stato Guido Manuli, che non aveva mai fatto animazione, ha imparato con me, era uno che aveva un sacco di idee, spirito, una mano fantastica per un disegno che si avvicinava un po' al mio stile, ma era un po' più raffinato del mio. Io magari facevo degli schizzi, ma poi era lui che me li completava, me li sistemava. Giovanni Mulazzani come scenografo, senza il quale non avrei fatto Western Soda e neanche VIP, Giancarlo Cereda, Giancarlo Rossi, Giuseppe Laganà, che è stato uno dei primi che è venuto, che è scomparso poco fa, carissimo amico, una persona fantastica, Giovanni Ferrari che era esterno allo studio, Walter Cavazzuti, fedeli fino alla fine nessuno, nel senso che quando abbiamo chiuso lo studio, l'abbiamo chiuso, quindi ognuno è andato per la propria strada. Con loro mi sono sempre trovato bene, proprio per il fatto che non era un lavoro dal datore di lavoro al dipendente, eravamo tutti sullo stesso piano, si discuteva, si litigava, ma si trovavano le idee al momento, c'era il piacere di lavorare insieme, di trovare idee insieme. Oggi questo faccio più fatica a trovarlo, perché oggi trovo la persona che magari mi lavora a Firenze piuttosto che a Genova, ma non c'è quel rapporto, quel tipo d'amicizia, quello scambio di opinioni che nascevano al momento ed erano quelle che davano la linfa vitale al film. L'animazione flash. Io sono curioso, sono attratto dalle cose nuove che non ho mai fatto. Mi chiama una piccola agenzia di Milano, mi dice: vorremmo fare un piccolo spottino per internet, ma devi farlo in Flash. Che è Flash? Ma è un programma, tu puoi fare l'animazione in maniera semplice. Ma io non lo conosco. Dice: prova a vedere. Insomma, ho cominciato a prenderlo e cercare di capire qualcosa, e ho fatto un minuto di animazione e ho scoperto Flash. Se io ho degli oggetti posso raccontare un film con due disegni. Europa Italia, due disegni, un cerchio e un rettangolo. Il problema è la storia, le battute, la musica, il ritmo narrativo, l'umorismo, e raccontare cose che sia vere, in cui la gente si riconosca. Così, pensandoci, io ho il pallino di vedere le cose dall'alto, mi piace molto, mi sono detto: sì, ma se io vedo una città dall'alto, vedo il lumino un cerchio, la macchina un rettangolo, posso tentare di raccontare delle storie, e fa tutto la macchina, non io. Io devo solo decidere quando parte, quando arrivo, quanto si ferma e quanto impiega. Il futuro dell'animazione italiana. In questo momento, alla mia età, un po' seguo l'andamento dello studio, perché lo studio, bene o male, è seguito da mio figlio e da Pietro Pinetti, che è il socio, e stanno facendo serie televisive, film divulgativi, eccetera. Mi piace ogni tanto venire a seguire senza intervenire più di tanto, perché devo farsi la loro strada e lavorare loro. Ho delle mezze idee, a volte inizio delle cose. Purtroppo mi sono accorto che, essendo in pensione e diventando vecchio, anziché avere tempo libero, non ho più un minuto libero. Questi lavori, purtroppo, richiedono tanto tempo. Ai miei tempi mi isolavo, facevo solo quello, andavo via, stavo via 20 giorni, ma solo a pensare alle mie cose, non c'era niente che mi disturbava. Oggi mille robe. Richiedi dei finanziamenti, e richiedere i finanziamenti, tu sai cosa vuol dire? Un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma via come nulla. Allora non sto a preoccuparmi. Butto lì il sasso nello stagno, vedo se si muove qualcosa, se si muove e nasce vado avanti, se no mi fermo. Thank you. storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Lupo Alberto. 45 anni fa, nel 1974, sulle pagine del settimanale Corriere dei Ragazzi, diretto da Giancarlo Francesconi, compariva per la prima volta il personaggio di Lupo Alberto. Tutta la serie del fumetto ruota attorno all'impossibile e paradossale storia d'amore tra Lupo Alberto e Marta, una gallina perbenista che sogna il matrimonio come coronamento del loro amore contrastato. Un sogno destinato a non avverarsi mai, anche se il simpatico lupo dal pelo azzurro è disposto a correre mille rischi per vedere l'amata compagna, affrontando immancabilmente i rudi interventi di Mosè, il grosso cagnone da guardia. Nelle strisce, nelle tavole autoconclusive e nei brevi racconti, ambientati nella fattoria McKenzie, gli umani non compaiono mai. Però tutti i protagonisti, animali di varie specie, ricordano comportamenti e caratteristiche tipicamente umani, sicché il lettore finisce per trovarsi di fronte a un divertente bestiario umanizzato. La lista di tutti i personaggi sarebbe lunga. Mi limito ad accennare, oltre a già citati Lupo Alberto, Marta e Mosè, Krug, il toro prepotente e permaloso, Enrico, la talpa, rompiscatole terribile, in coppia con la moglie Cesira, Alcide, il maiale, il più colto del gruppo che ama le letture impegnate e compone poesie, e Glicerina, il papero più sciocco e tontolone dell'intera fattoria, degno rappresentante di una demenza sconfinata. Moltissime altre le figure interessanti che hanno, in questi 45 anni, fatto la loro parte nel teatro della fattoria McKenzie. Dal suo esordio sul settimanale per ragazzi, in seguito, il fumetto viene pubblicato su tantissime altre testate, come il mensile Eureka, finché riesce ad avere una testata tutta sua, in formato orizzontale, che permetta al personaggio di riscuotere un notevole e duraturo successo. Ma non ci sei, ma dove vai? E se ti piglio nel cespuglio non lo sai, che fine fai? Lupastro mio, te ne accorgerai. Meno male, meno male, meno male non finisce qui. Meno male, meno male, meno male ricomincia il film. Ti doveva capitare proprio un pollo come te. È un istinto micidiale. Accidenti a me, l'ho fregato l'ululato, m'ha fregato l'ululato, m'ha fregato l'ululato. Stress da lupo, stress da lupo. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fugico e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?